come scalda il sole, senti come batte forte, senti come corre lungo la schiena, mi riporta indietro nel tempo. La pelle cambia colore, penetra e riscalda il cuore, questa dolce brezza carezza il mio corpo, io rimango ancora un momento. Volo un po' secca, voglia di tenerezza, cerco caldato un delizioso gelato, fallo anche tu, scegline uno a piacere, questo fresco momento ci ristorerà. Senti come scalda il sole, senti come batte forte, senti come corre lungo la schiena, mi riporta indietro nel tempo. La pelle cambia colore, penetra e riscalda il cuore, questa dolce brezza carezza il mio corpo, io rimango ancora un momento. Senti come scalda il sole, sole. Senti come corre lungo la tua schiena, senti come scalda il sole, senti come batte forte, senti come corre lungo la schiena, lungo la tua schiena. L'aria che scotta, la pelle già rossa, devo rimediare, qualcosa da bere. Fallo anche tu, scegli un gusto a piacere, questa fresca granita ci ristorerà. Senti come scalda il sole, senti come batte forte, senti come corre lungo la schiena, mi riporta indietro nel tempo. La pelle cambia colore, penetra e riscalda il cuore, questa dolce brezza carezza il mio corpo, io rimango ancora un momento.